that you can. Baby, can show me that you can. Baby, show me that you can. Baby, can show me that you can. Big old, you big old, you won't believe what you gonna hear. Ed eccoci qua. Dopo un paio di martedì in replica e dopo 17 minuti di ritardo, inizia la 74esima puntata di Radio Bam. La trasmissione che vi tiene compagnia ogni martedì sera dalle 21 alle 22 è curata dal vostro Franz, che sarei io. Stasera in compagnia probabilmente di John Terrible e del nostro amico Geppo da Cagliari, siccome Cristian Legramanti, detto Cischi, non è qui con me. Probabilmente perché si è fatto intristire dal brutto tempo, siamo ormai entrati nell'estate perché è martedì 30 marzo, ma non sembra proprio visto la quantità di acqua che è venuta giù fino a 10 minuti fa. Cos'è Radio Bam? È la trasmissione curata dalla fanzine Bam Magazine, che tratta il meglio ed il peggio del rock and roll e punk rock underground. Lo trovate su www.bam-magazine.it e su myspace.com/bammagazine, tutto attaccato. E allora, visto che la primavera è iniziata, o almeno così dovrebbe essere, ci ascoltiamo qualcosa di un po' allegro per tirarci su il morale. Well, you're my man, don't you forget I melt your heart. If you feel me back a minimum, keep me safe from one at night. You say no, no, no, no, no, don't you see your heart's so cold. I can't believe I will win, well, you know, if you're gonna only try. Should run away from the dark, but you gotta hold on my heart. And it beats so hard for you. Let me know, cause I've been waiting so long. 99.6, siete sintonizzati su Radio Onda d'Urto e questa è Radio Bam. Quelli che avete appena sentito sono i Vermilion Sands da Venezia / Treviso / Torino con Miss My Gun, la title track del loro ultimo 12 pollici su Sacred Bones. Prima di loro i Thomas Function con Day in the Shade, dato dal loro ultimo album su Fat Possum, e prima ancora le Sugar Stems con Beat Beat Beat, tratto dal loro primo 7 pollici su Bachelor Records. Bachelor Records di cui abbiamo ricevuto ultimamente un grosso pacco pieno di dischi con tutte le loro ultime uscite, quindi li ringraziamo pubblicamente. Quindi le prossime puntate sentirete molto dei dischi Bachelor Records e delle loro ultime uscite. Sarebbe bello avere anche qua il capo dell'etichetta, ma ahimè vive in Austria, si chiama Elmar e lo ringrazio. Magari un giorno, quando deciderà di fare un viaggio in Italia o una vacanzina, verrà qua e potremo intervistarlo. Dicevamo Sugar Stems, che tra l'altro annovera membri di ex Legounds e Jetty Boys e anche di Flips. Sicuramente tutti questi gruppi ve li ricorderete, come no, perché li avete sentiti nelle puntate scorse di Radio Bam. A proposito, potete abbonarvi gratuitamente al podcast di questa trasmissione andando su iTunes e digitando Radio Bam e cliccando semplicemente sul tasto abbonati. Tra l'altro la trasmissione sta avendo parecchio successo da questo punto di vista, il podcast viene scaricato molto e vi ringrazio. Dicevamo invece dei Vermilion Sands, di cui abbiamo sentito Miss My Gun, tratto da loro 12 pollici su Sacred Bones, da non confondersi con il loro nuovo LP, vero LP ovvero con 11-12 pezzi, mentre questo invece è un 12 pollici EP con 5 pezzi. L'LP invece è stato pubblicato dalla Alien Snatch circa una settimana fa. Loro hanno appena iniziato il loro tour di promozione del disco, che è partito proprio dall'Italia settimana scorsa. Domenica li abbiamo avuti al baretto Paci Paciana di Bergamo. Ottimo gruppo, ottimi dischi. Vi passeremo sicuramente anche nelle prossime settimane l'LP su Alien Snatch. Intanto siete accontentati di Miss My Gun, che tra l'altro l'EP è veramente molto molto molto bello. E che altro dire, sono le 21:28, io ho una fame pazzesca, spero che i miei fattorini inizino a portarmi qualcosa da mangiare e da bere, perché sto veramente svenendo. Sono arrivato anche tra l'altro in ritardo proprio per la pioggia torrenziale che è venuta giù prima. E quindi cosa andiamo a sentirci? Andiamo a sentirci altre ultime uscite, un altro gruppo italiano, sempre amici dei Vermilion Sands tra l'altro, metà romani, anzi metà palermitani, metà francesi ma residenti a Roma. Hanno appena pubblicato il loro primo disco LP su Jet Coon Records di Roma. Si chiamano Cappottini di New, sono stati ospiti qui da noi qualche settimana fa insieme ai Butter by Guitar. Hanno pubblicato il loro LP e andiamo a sentirci un brano tratto da quest'ultimo. Bye. 99.6. Bro, questi erano i Cappottini Lignù. No, anzi, no, questi chi? Erano gli Strange Boys con Be Brave, tratto dal loro ultimo album omonimo, intitolato Be Brave. Gli Strange Boys ormai sono un gruppo di Austin, Texas, e sono ormai sulla bocca di tutti, visto che anche l'ultimo numero di Uncut, rivista che va per la maggiore inglese, che però tratta di solito solo ruba abbastanza per vecchi. Sulla bocca e dentro la bocca, esatto, suggerisce John. Intanto è arrivato John a farmi compagnia. Ciao, John, ragazzi. Benvenuto, grazie per avermi portato la cena. Peccato che non... Misera! È miserissimo, veramente. Ancora una fame disperata, in raccontava Franz. Ovviamente tre delle birre che mi hai portato funzioneranno da mia cena stasera. Anzi, con poco cibo, molta birra saranno, esatto, ancora più apprezzate. Allora, caro John, abbiamo sentito i Strange Boys con Be Brave. Poi io non c'ero. In prima di loro con Sweet Clover. Stavo fumando. Stavi fumando, e questa era una pallida autopromozione, visto che il 12 pollici dove è contenuto questo pezzo è appena uscito per la mia etichetta, mia di Lisa. E quindi veramente squalida autopromozione. A proposito, parliamo di quante squalide sono stati i risultati delle elezioni di oggi. Oh, tutto ciò mi è all'oscuro. Da bravo apolitico, ecco, apartitico, io mi sono tirato fuori ed ero a lavorare. Prima di loro i Jack Ho and the Tennessee Tear Jerkers. Jack Oblivion, sai chi sono gli Oblivions? Purtroppo manca questa cosa, John. Insomma, sono un gruppo storico del garage punk anni 90. Mm-hmm. E Jack Ho è uno dei due chitarristi e tornerà in Italia molto presto, ovvero a giugno, inizio giugno, con tre date italiane. Una sarà all'inaugurazione di Cascina Irma a Zanè, in provincia di Vicenza. Una sarà al Festival della Scaletta Rock Club alla Spezia. Dal caro nostro amico Diegone. Esatto, e una a Villa d'Ossola, in provincia di Verbania. Adesso io naturalmente non mi ricordo le date, perché sono totalmente disorganizzato, ma posso andare a cercarle sul telefono. Allora, la data esatto, sì, la data di giovedì, quella Cascina Irma di Jack Oblivion, è il 3 giugno. Quella alla Scaletta è il 4 del venerdì, sempre giugno 2010. E quella Villa d'Ossola, in provincia di Verbania, è domenica 6 giugno. Tre date per Jack Oblivion. Prima di Jack Oblivion invece abbiamo sentito i Cappottini Lignù. Te li ricordi, John? Cappottini Lignù. Esatto. Un po' metano fu. Con Fireflies, tratto dal loro album appena uscito su Jet Cune Records, che tra l'altro venivano a presentare proprio quando sono stati qua in radio qualche Radio più Lio. Ah, febbraio. Radio più Lio, febbraio. Ti sono piaciuti? Sì. Come li descriveresti? Toghi. Erano in due, facevano un gran bel baccano. Esatto. E c'era il tipo che suonava chitarra e con un piede batteria e piatti e gran cassa e cornamusa. No, beh. In due facevano un gran bel baccano, insomma. Okay. Sono stati veramente bravi. Salutiamo Cischi, che è un brutto pezzo di merda. Ho già detto che insomma si è fatto prendere male dal tempo fuori, ma noi invece no. Mm-hmm. Assolutamente no, anzi. Anzi, dopo andremo a festeggiare. Anzi, dopo andremo a registrare la puntata di settimana prossima, che probabilmente non saremo in diretta, ma martedì 13 avremo qui in studio grande ospite, Paul Caporino dei Moto, bello, gruppo di Chicago. Caporino. E adesso andiamo a sentirci Moto da Chicago. Quindi su Radio Bam 99.6. Climb up the Eiffel Tower, that's what you're looking for. Climb up the Eiffel Tower, that's what you're looking for. Climbing up the Eiffel Tower, it's where I sit for hours, it's where I see for miles. Climbing up the Eiffel Tower, it's where I sit for hours. Like I've done for years, in the cold gray skies. è successo, Gio? Che hai fatto una cazzata. Ho fatto una cazzata e si è saltato il disco. 20 secondi fa, infatti, ragazzi, non facciamo questo disco. Sì, sì, sì, certo. Bravo, bravo. Allora, queste erano le Hats con I Can't Be True. O almeno erano fino a un certo punto le Hats. Esatto. E cosa ti ricordi delle Hats, John? Visto che sono appena passate per in Italia per il loro primo show. Mi ricordo una batterista allucinante. Descrivila. Una super babbalaiola. Era carnagione scura, cappello. Qualcuno vicino a me ha detto: si tratta quel genitale maschile, come tratta la batteria sovramente cazzi acidi. Esattamente. Ed era veramente allucinante. Molto. E questo è un pezzo tratto dal loro ultimo album, pubblicato da un'etichetta di Hamburgo che naturalmente non ho nessuna informazione. Comunque potete cercare The Hats. Torneranno in Italia probabilmente a fine luglio, non si sa ancora se la terz'ultima settimana di luglio o l'ultima, si vedrà. Prima delle Hats abbiamo sentito invece i Beach Boys con Don't Hurt My Little Sister, splendido pezzo, dato da Today se non mi sbaglio. Non fate male a lei. E insomma, e poi i Moto con Climb Up the Eiffel Tower, che verranno qua il 13 di aprile. E noi saremo qua pronti ad accoglierli. Suoneranno quella sera, martedì 13 aprile, al Lio Bar qui a Brescia. Il giorno dopo suoneranno all'Init a Roma. Il giorno dopo ancora, il giovedì 15, suoneranno all'Ex Fila a Firenze. Per concludere poi, mini tour italiano, venerdì 16 al Town, insieme a una serie di altri gruppi, per una band night Town di Fidenza in provincia di Parma. Ragazzi, tutto ciò a memoria, senza leggere. A memoria, bravo, grandissimo. Tra l'altro, John, la puntata che è andata insomma in differita per diverse settimane, parlavamo del Ghost Lake, ma noi ovviamente non sapevamo ancora come era andato il Ghost Lake, veramente. Per chi insomma si sintonizzate solo adesso, passasse per la 4 e non ha mai sentito parlare dei Radio Bam, e né tantomeno della Ghost Lake, è un simpatico party che facciamo sulle sponde del lago di Iseo. Abbiamo fatto lo scorso 6 marzo con appunto Letz e Caroline Andersen. La quindi quarta edizione. La quinta edizione è appena stata, anzi no, il Ghost Lake Barbecue, che non è la quinta edizione. Sarà il 25 aprile insieme. È un po' quello che succede per Gran Turismo della PlayStation. Cosa succede con Gran Turismo? Che al posto io gioco solo a Pro Evolution. Che quindi al posto del 5 è da 100 anni che ci mandano il prologue. Ok. È un po' come è successo con Street Fighter 2, no? Che al posto di fare Street Fighter 3 ha fatto Turbo, l'X, esatto. Per fare una serie di stronzate. Esatto, invece quindi questa non sarà sto stronzata, sarà una cosa veramente tosta, perché arriveranno Lengo Slim, arriveranno un sacco di birri, arriveranno presenze da ogni dove dall'Italia per arrivare. Vi terremo aggiornati nelle prossime settimane, probabilmente già il 13 aprile vi sapremo dare delle maggiori informazioni per il 25, quindi brevissimo. Voi tenetevi liberi il 25 pomeriggio, che è la domenica, e tra l'altro è vacanza. Sarà un barbecue party, vedremo se tenere la carne tutta per noi, darvene un po' anche a voi. Manderemo tutta per noi. Esatto. Allora, dicevamo, Ghost Lake numero 4. Parlando di Hats, che abbiamo messo prima, sono venute anche loro, hanno aperto il concerto. Il concerto... Ti è piaciuto l'Hats o no? Non male. Io ho solo per la batterista. Mi dicevi che era un po' mal cagata, però. Ci hai provato la batterista? La cantante era mal cagata, la batterista se è andata via subito con 3 o 4 persone. L'ho rivista poi quando sono andato a fare il mio super video, super cliccatissimo tra l'altro, sul contatto Tube Terrible di YouTube. Esattamente, a Caroline Dietrich. Me la sono beccata nello spogliatoio, ma il chitarrista, quell'altro cazzone, che mi ha chiuso subito la porta in faccia, fortissimo. Cristo, un dio. 21:58 Franz, riusciremo mai a chiudere? No, dobbiamo chiudere subito, perché dopo di noi c'è Desert Caravan. Ci fa cagare. No, non è vero. Era per il non se la cischi nel Allora noi andiamo a sentire. Invece concludiamo in bellezza con un gruppo che a Desert Caravan piace molto, perché l'abbiamo suonato mille volte, sono i Kings. Lo dedichiamo al nostro amico Geppo, che è qua con noi a portarci le birre. Con noi ci sono infatti Geppo e il pilota Vale. Sai che a chi ascolta dopo un po' che parliamo dicendo di questo qua. E quindi sentiamo i Kings. Vi ricordiamo che potete abbonarvi a Radio Bam su iTunes, digitando semplicemente Radio Bam e soprattutto pagando tantissimi soldi, cioè zero, che è quello che prendiamo tra l'altro a venire qua, quindi, quindi comunque la cosa è molto... Anzi, facciamo un rapido conto tra kebab e birra, ci spegniamo, esatto, salutiamo il kebabaro, andiamo a sentire i Kings con... Ma lo facciamo per voi! Andiamo a sentire Kings con Dedicated Follower of Fashion nella sua versione di Picture Book, che è il bellissimo mega cofanetto dei Kings appena pubblicato. Noi vi diamo appuntamento settimana prossima, non saremo in diretta ma saremo registrato, andiamo a registrare adesso e siamo abbastanza carichi di birra per fare una puntata abbastanza stupida come questa, se non di più di questa. Questi sono i Kings, dopo di noi Desert Caravan, dopo ancora Blues Metal Jacket, quindi non lasciate Radio Onda d'Urto, restate sintonizzati sul 99.6, che tanto l'Italia sta andando a rotoli. Questi i Kings, ciao. Tanta carne alla brace. It will make or break him, so he's got to buy the best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. And when he does his little round on the boutiques of London town, eagerly pursuing all the latest fashion trends, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is. Thinks he is a flower to be looked at. So when he pulls his frilly nylon and his legs up tight, he feels a dedicated follower of that. Oh yes he is, oh yes he is. One week he's in polka dots, the next week he's in stripes, 'cause he's a dedicated follower of fashion. They seek him here, they seek him there, in Regent Street and Leicester Square. Everywhere the Carnaby shook, Carnaby bounces on. What a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is. His world is built round discotheques and parties, pleasure-seeking individuals always.